24 mattino. Allora, 8 e 17 minuti, eccoci qua con 24 mattino, 349-238-6666 per i vostri sms. Parliamo di economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, sì, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Eccoci allora, qua. Come anticipato prima, parliamo di benzina. Esatto. Perché da mercoledì prossimo, che mi risulta essere il 1 luglio. Bravo, scattano... vedo che sei capace anche di leggere il calendario. Vedi che progressi che ho fatto. Scattano i prezzi, non ridere. Basta. Andiamo, la trasmissione dai. Sospesa per risate della conduttrice. Non manchiamo di rispetto ai nostri ospiti per le nostre sciocchezze. I prezzi liberi sulle autostrade. Allora. Esatto. Tutti molto attenti. No, peraltro sì, esatto. Adesso sai com'è, cominciando sempre con il ridere, io e te, quello che volevo chiederti questa mattina, insistendo su una domanda che ti ho già fatto ieri: dove vai quest'estate in vacanza? E te lo chiedo non tanto per farmi gli affari tuoi, non tanto per poterti perseguitare con le mie telefonate, ma per avvisarti che per gli spostamenti forse a qualcuno converrà prendere quest'anno altri mezzi piuttosto che l'automobile, quindi treno, aereo, perché quest'anno la partenza per le vacanze di molti automobilisti potrebbe essere una partenza che potrebbe riservare sorprese amare. Tra l'altro, parleremo appunto di prezzi della benzina questa mattina, quindi del carburante. Timidamente in questi giorni avevamo cominciato a sperare che il costo iniziasse a scendere. L'Agip ha iniziato ieri la sua inversione di rotta sui prezzi praticati alla pompa. Il petrolio è sceso sotto i $70 al barile. Ricordate cosa stava succedendo un anno fa, quando le quotazioni del greggio si avvicinavano pericolosamente ai $150, eppure anche quest'anno dobbiamo di nuovo riparlare di tensione sui prezzi della benzina. I gestori delle aree di servizio hanno deciso dal 1 luglio ogni accordo sul prezzo massimo di vendita dei carburanti sarà sospeso e quindi i prezzi praticati dai gestori autostradali potrebbero schizzare alle stelle. Perché? Cosa sta succedendo? Stamattina ne parliamo con due ospiti. Martino Landi, presidente della FAIB Confesercenti, la Federazione Autonoma Italiana Benzinai. Presidente Landi, buongiorno. Buongiorno. E buongiorno anche a Rosario Trefiletti, presidente invece di Federconsumatori. Trefiletti, ben tornato a Soglia dintorni anche a lei. Ben ritrovati e buongiorno a tutti. Landi, naturalmente devo cominciare con lei. Come siete arrivati a questa, come dire, non decisione? Cosa accadrà esattamente dal 1 luglio? Perché gli automobilisti che percorreranno la rete autostradale da quel giorno potrebbero ritrovarsi a che fare con qualche amara sorpresa. Sì, noi siamo stati costretti, dopo lunghe trattative con le compagnie petrolifere, a prendere questa iniziativa che appunto dal 1 luglio su tutte le tratte autostradali d'Italia tutti i gestori potranno uscire dagli accordi che hanno con loro compagnie petrolifere e applicare un prezzo libero. Voi dovete sapere che noi siamo l'unica categoria per la quale abbiamo consegnato il prezzo finale della benzina, questa decisione, questo prezzo che lo stabiliscono le compagnie petrolifere. Il prezzo è già libero, la differenza è che fino ad oggi il prezzo del carburante in autostrada, come sulla rete ordinaria, veniva stabilito dalle compagnie petrolifere, non essendoci stato accordo con esse e i relativi gestori, dal 1 luglio il gestore può applicare il suo prezzo e quindi ovviamente potremmo anche trovare un leggero aumento rispetto alla settimana prima, in quanto il gestore, dopo un anno di estenuanti trattative, dopo distanza di in alcuni casi anche 2-3 anni dai mancati accordi con le compagnie stesse, ci siamo visti negare l'adeguamento che per legge viene riconosciuto a tutti i lavoratori, e quindi questo noi non possiamo più continuare a sostenere una situazione che con l'aumento dei costi, con l'aumento di tutte le spese gestionali, il gestore non può più sostenere quel ma- margine, con quel margine che gli viene riconosciuto la sua attività. Quindi questo è dunque quanto denunciano i sindacati dei gestori, e questo è anche ciò che vi porterà, presidente Landi, al famoso sciopero nazionale che è stato indetto per l'8 e il 9 luglio, che era stato inizialmente, per la verità, indetto proprio per queste due giornate, per oggi e domani, poi rinviato perché la commissione di garanzia sugli scioperi vi ha chiesto di fare dietro fronte. Quindi questo che vi porta allo sciopero? Esatto, questa è essenzialmente le motivazioni con le quali noi abbiamo indetto uno sciopero che coinvolge non solo le autostrade, ma coinvolge tutta la, oltre le autostrade, tutta la rete ordinaria italiana. Essenzialmente le motivazioni dello sciopero, oltre a appunto questa difficoltà nel trovare accordi con le compagnie petrolifere, abbiamo indetto questo sciopero anche verso gli impegni che il governo già un anno fa, siglando un protocollo d'intesa con le organizzazioni dei gestori, si era assunto degli impegni che non sono stati mantenuti, per cui noi l'agitazione è legata essenzialmente agli impegni che il ministro Scajola nei confronti di questa categoria aveva preso rispetto alla liberalizzazione del settore. Benissimo, ecco, lei ha detto la parola molto importante, il tema della liberalizzazione. Rosario Trefiletti, presidente di Federconsumatori, il prezzo della benzina e del carburante non ci dà mai tregua, nella guerra fra gestori e compagnie si rischia che a farne le spese siano naturalmente i consumatori. Le chiedo che cosa pensa di questa situazione, perché tra l'altro ho letto anche questi titoli di giornale in questi giorni: dal 1 luglio scattano i prezzi liberi sulla rete autostradale, teoricamente il tema della liberalizzazione porta vantaggi ai consumatori, non mi sembra proprio questo il caso. Trefiletti. È una vera liberalizzazione, ma non è questa la vera liberalizzazione. Quella che noi spieghiamo ormai da anni è che si riesca a liberalizzare il settore facendo anche costruire distributori di benzina nella grande distribuzione, insomma che si facciano investimenti in questo settore, e chi è più capace, naturalmente a prezzi più contenuti, con la qualità che deve essere ovviamente a regola, si venda nel mercato. No, tra l'altro questa della grande distribuzione è un altro aspetto che fa molto arrabbiare i gestori. Io però volevo attenermi alla polemica di questi giorni, no, solamente per chiederle che cosa pensa di questa situazione, perché so che voi avete espresso una considerazione molto chiara sull'eliminazione del prezzo massimo di vendita dei carburanti, e avete addirittura ipotizzato che i prezzi fuori mercato possano superare anche i 2 euro al litro? Ma no, guardi, io non so chi ha fatto, francamente Deborah, non capisco chi abbia fatto queste previsioni. Io so solo questo: primo, naturalmente diamo anche delle istruzioni per l'uso degli automobilisti, qualora si dovesse mantenere questo stato di agitazione, controllati i prezzi autostradali, sono messi nei cosiddetti benzacartelloni, e quindi naturalmente fate il pieno di benzina laddove è più conveniente, fatelo essenzialmente fuori dall'autostrada proprio per risparmiare. Ma detto ciò, noi ci auguriamo che questo non avvenga, che non avvenga né lo sciopero che danneggia gli automobilisti, e anche quello che si paventa, cioè i prezzi liberi in autostrada. Il problema vero è la liberalizzazione del settore, non dei prezzi. Liberalizzazione del settore significa superare una volta per tutte, ma lì ci sta dentro anche il discorso della grande distribuzione, che piaccia o non piaccia agli attuali esercenti, che ci sia il superamento, purtroppo devo utilizzare un termine tecnico, dei prezzi di rete e di extra rete. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che i distributori di carburante devono diventare proprietari della propria colonnina di rifornimento, perché così attualmente loro sono estremamente vincolati alla compagnia di bandiera e possono solamente fare in buona sostanza i dipendenti della compagnia di bandiera. Non c'è processo di liberalizzazione, quindi bisogna che ci sia un processo invece di alienazione degli impianti verso chi gestisce questi impianti. Benissimo. Ecco, e si faccia una vera liberalizzazione, così si può ottenere un serio sconto sugli stessi. Lo si dice da tanto. Landi, io purtroppo ho terminato il tempo a mia disposizione, so che lei sul tema della liberalizzazione vorrebbe dire tante cose, questa mattina non ho tempo, ma prometto che vi rimetto insieme, magari articoleremo un po' di più la nostra conversazione di stamattina. Solo in un nanosecondo, cioè, se ci riesce, siete stati convocati dalle compagnie? Avete dei margini di apertura per anche scongiurare lo sciopero? Ma guardi, noi in questi giorni stiamo rapidissimo, la prego, sì o no? Dalle compagnie non direi, più che altro siamo stati convocati e avremo contatti con il governo e con il ministero di competenza per far sì che le nostre richieste vengano accolte. Grazie molte, ci risentiremo senz'altro nei prossimi giorni, perché il 1° luglio è dietro l'angolo. Grazie a Rosario Trefiletti e Martino Landi. Alessandro, oggi a Salvadanaio parlo del piano casa. Buona giornata. Le 8:32 minuti, uno sguardo alle notizie in primo piano. Quella donna ha avuto un mandato molto preciso e benissimo retribuito per colpirmi, così Silvio Berlusconi in un'intervista al settimanale Chi attacca Patrizia Daddario, la escort barese che sostiene di aver passato una notte a Palazzo Grazioli perché pagata da un amico imprenditore. Non ho mai pagato una donna, dice Berlusconi. La Daddario in serata ha replicato con un comunicato: se ha le prove vada dal magistrato, altrimenti taccia. Il presidente americano Obama condanna le azioni ingiuste del regime iraniano sui cittadini che protestano, evocando seri dubbi sulla legittimità delle elezioni. Intanto sul sito web del principale candidato sconfitto Mousavi appaiono le accuse di brogli, nomine pilotate, schede senza numero di serie e urne già piene di voti ai seggi. Domani il via all'esame di maturità per circa 500.000 studenti. Si parte come tradizione con lo scritto di italiano, ma è già record di non ammessi agli esami, quasi 29.000, circa il 30% degli studenti. Infine per il calcio, l'Italia Under 21 ha battuto 2-1 la Bielorussia con doppietta di acqua fresca e si è qualificata dunque alle semifinali dei campionati europei. Venerdì sfiderà la Germania. Tutto questo alle 8:34 minuti. Il numero per i vostri messaggi è 349-238-6666. Dunque parliamo di doppi incarichi, a volte bisognerebbe dire anche tripli, di alcuni politici. Allora, c'è una legge che dice sostanzialmente così, che chi è sindaco di un comune oltre 20.000 abitanti oppure presidente di una provincia non può di fatto essere parlamentare. Eppure ci sono sindaci di comuni oltre 20.000 abitanti che sono anche parlamentari, così come presidenti di provincia che sono anche parlamentari. Ma è bene dirlo, rispettano la legge. E allora c'è qualcosa che, insomma, un inghippo da qualche parte. Come scriveva Sergio Rizzo sul Corriere della Sera di recente, l'inghippo è questo. È vero, la legge dice che chi è sindaco con oltre 20.000 abitanti o presidente di provincia non può diventare parlamentare. Ma siccome non specifica che il percorso inverso è vietato, chi è parlamentare può diventare sindaco di una città con oltre 20.000 abitanti o presidente di provincia. Io voglio salutare l'onorevole Pino Pisicchio, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Dell'Italia dei Valori, tra l'altro lei è coordinatore del Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze della Camera, quello che esamina appunto tutti i casi di incompatibilità. Sostanzialmente è così, cioè che la legge prevede un percorso, si può fare, non specifica che quello inverso no, e quindi basta essere prima parlamentare e poi diventare per esempio presidente di provincia, e questo la legge lo ammette. Guardi, l'impianto che ha proposto Sergio Rizzo e che lei ricordava è corretto e giusto, o meglio, non è che è giusto comportarsi così, è giusto ricordare che da un certo momento in poi nella vita del Parlamento ci si è orientati in questo senso. Dato che il tenore letterale della legge dice che chi è sindaco di un comune grande e chi è presidente di una provincia non può diventare deputato, pena addirittura in questo caso l'ineleggibilità più ancora che l'incompatibilità, ecco che questa disposizione viene applicata alla lettera. Viceversa, se uno è deputato o è senatore e diventa poi sindaco o presidente della provincia, si è concesso a costoro, adesso cominciano i miei colleghi a diventare piuttosto numerosi alla Camera, ma mi pare anche al Senato, si è concesso di rimanerci. Qual è l'inghippo? Non solo vi è come dire, un'adesione all'impianto letterale della disposizione normativa, che evidentemente però è inutile dire cose bislacche, se afferma il principio che chi fa il sindaco di un comune grande, chi fa il presidente di una provincia non può fare il deputato, vale nell'una direzione e nell'altra. Per lei dovrebbe valere, dovrebbe essere biunivoca la cosa, il percorso. No? Ma le dico di più, gli orientamenti della Giunta delle Elezioni, che è, lo dico per i nostri ascoltatori, talvolta l'organizzazione di Camera e Senato hanno degli arcani, la Giunta delle Elezioni è questa specie di tribunale interno che viene messo in piedi ai sensi dell'articolo 65-66 della Costituzione, in cui queste situazioni vengono valutate dai pari, quindi dai deputati. Sì, deputati che giudicano i deputati. E già questo, come lei può ben capire, è una roba un po' bislacca, perché è uno dei pochi casi, insieme al CSM, in una dimensione disciplinare, di terzietà che non c'è, sì. Perché in genere il tribunale deve avere una sua dimensione di terzietà. Comunque si è sempre negato il valore giurisdizionale a questa commissione. Torniamo al discorso. Fino alla prima, la cosiddetta Prima Repubblica, l'applicazione di questa disposizione normativa è stata rigorosa. Quindi, cioè non c'era nessun caso fino alla Prima Repubblica di doppio non esisteva, questa cosa non esisteva. Le maglie si sono aperte, guarda caso, con l'avvento della cosiddetta Seconda Repubblica. Onorevole Pisicchio, però, siccome noi abbiamo anche un caso, l'abbiamo chiamato e qui gentilmente ha risposto e si difenderà. No, adesso poi approfondirò con lei, perché lei che è dell'Italia dei Valori, che mi fa capire che da questo punto di vista la Prima Repubblica era meglio della Seconda. Proprio lei dell'Italia dei Valori, insomma, con Di Pietro che l'ha fatta cadere, qualcuno dice, la Prima Repubblica. Comunque io voglio salutare l'onorevole Marco Zacchera, buongiorno. Buongiorno, onorevole... è venuto il suo ufficio di sindaco di Verbania, mentre il collega stava parlando, ragionava dicendo, in 3 minuti avrei già risolto 2 problemi della mia città. Accidente, sì, perché diciamolo, lei è onorevole e sindaco di Verbania, ne ho eletto da poco, sì, sindaco di Verbania. Finale, Verbania, piccolo capoluogo di provincia sul Lago Maggiore. Che però supera i 20.000 abitanti. Quindi allora, lei il percorso l'ha potuto fare perché era prima parlamentare. Vogliamo precisare alcune cose. Innanzitutto, io faccio deputato pro tempore, perché bisogna spiegare agli ascoltatori che è vero che un deputato può diventare sindaco se è eletto dai cittadini, e io lo sono diventato in un posto dove da 64 anni comandava la sinistra, ci tengo a precisare, io sono del Popolo della Libertà. Detto questo, però, è chiaro che se domani mattina cade la legislatura io non posso più candidarmi alla carica in Parlamento. E certo, perché adesso è sindaco e non può... Sì. Io non è stato detto, sembra che uno può andare avanti a vita. No, io so che il mio destino, tra virgolette, è insegnato. Posso finire questa legislatura, che non so quanto durerà, e poi basta. Primo aspetto. Secondo aspetto, che ho anche spiegato, l'incarico di sindaco ovviamente, giustamente, è completamente gratuito. Tra l'altro l'amministrazione risparmia anche qualcosa come indennità del sindaco, che ricevendo già l'indennità parlamentare ovviamente non riceve nulla. Ma su questo non c'è dubbio, no, la questione economica io non l'ho toccata, è importante dirlo. Lei dice non prende un euro come sindaco. Terzo aspetto è importante, il fatto di avere un piede alla Camera è importante per un'amministrazione comunale, perché spesso può avere quei contatti a livello governativo, a livello di ministeri, che sono utili per, diciamo così, per la stessa amministrazione. E quarto aspetto è un discorso di logica. In molti paesi del mondo, per esempio in Francia, è normale invece la situazione che il sindaco sia anche parlamentare. Non la trovo così sbagliata, perché, almeno come intendo io, ho fatto un'esperienza parlamentare, sono alla quinta legislatura, non lo farò più, porto un'esperienza, diciamo così, parlamentare, politica, nell'amministrazione, e questo mi ritengo sia estremamente positivo. Quindi per un sindaco l'obiettivo, se vogliamo, politico è essere promossi in Parlamento, ma se alla fine della sua carriera politica, o comunque portata avanti da parecchio tempo, un parlamentare si mette a disposizione della propria comunità, Vai, io non ci trovo niente. Però, onorevole, le volevo fare 2 domande. Prima le sottoporrò quello che ha detto il suo collega onorevole Cirielli, che è diventato presidente della provincia di Salerno, che ha dichiarato a conti fatti come si fa a conciliare le due cose, gli hanno chiesto un giornale locale, ha detto a conti fatti l'attività parlamentare è concentrata da martedì pomeriggio a giovedì mattina, 2 giorni pieni. insomma, non è una grande autodifesa, come le dire, al Parlamento si lavora poco, dunque posso conciliare le due cose. Guardi, io ho detto in campagna elettorale, e lo dico oggi, ci sarà ben qualche mio elettore all'ascolto, ho detto che se durante la legislatura comunale mi accorgessi che non posso conciliare due cose, io sospendo, mi autodimetto dal Parlamento, questo non c'è dubbio. Per ora vedo che le cose sono conciliabili, ove non lo fossero si procederà con molta lealtà. Ripeto, io ho dei ritmi di lavoro a livello personale anche nel weekend che sono notevoli e quindi riesco però a conciliare due cose. Ove io penso in coscienza uno si accorgesse che non può seguire due cose, deve a mio avviso optare per quella che ha scelto volutamente, cioè in questo caso di fare l'amministratore essendo già prima parlamentare. C'è da dire poi, onorevole e sindaco, che insomma effettivamente però è un po' difficile magari da capire per i cittadini il fatto che ci sia una regola che vale in un verso, che vieta da sindaco di diventare onorevole, vuole invece da parlamentare si può diventare sindaco, insomma. Se questa è la regola, non l'ho fatta io. Detto questo, è un'interpretazione della regola. Un'altra cosa che va detto: perché il limite dei 20.000 abitanti? Allora non puoi, capisco un comune, un microcomune di 200 abitanti, ma una città di 20.000 abitanti, allora 19.000 abitanti va bene, 21.000 non va bene, c'è qualcosa che non quadra. Mettiamo dei paletti forse più chiari, anche perché un sindaco è una città di media o grande importanza. Se di grande importanza è difficile che ci siano le due cose, ma di media importanza, però peraltro uno staff, dei collaboratori, sì, che magari non ci sono, una città di 10.000 abitanti, quindi uno è anche supportato. Non dimentichiamo, mi scusi, anche della praticità delle cose, che molte cose si possono fare anche quando sei a Roma, perché io sono collegato in diretta al mio banco in Parlamento col computer con la segreteria del mio comune. Ma per carità, l'interattività, ma questo sì. Onorevole Pisicchio, concludo con lei, insomma, ma questa situazione si risolverà? Lei dice, oppure rimarrà questa situazione un po' affidandosi a chi, come dice l'onorevole Zacchera, se non ce la farò lascerò una poltrona, se invece ce la farò le terrò tutte e due. C'è chi ne ha tre, ripeto, qualcuno ci segnala Azzolini, sindaco di Molfetta onorevole, ma insomma ce ne sono anche di più. Il sottosegretario Molgora è sottosegretario onorevole ed è diventato presidente della provincia di Brescia da pochi giorni, a tre. Beh, abbiamo scoperto che siamo disseminati di Superman, insomma, quindi siamo ben è l'eccellenza il Parlamento, quindi è giusto che sia così. Guardi, una delle cose più strane, come dicevamo prima, del nostro Parlamento è che sia chiamato il Parlamento stesso a giudicare di queste questioni. Perché lei capisce bene, lei ha fatto bene a sottolineare prima, è una interpretazione quella che è stata data, perché la legge è molto chiara, quando afferma un principio dice che questo principio vale per tutti, afferma il principio che c'è incompatibilità, punto, basta. Nell'uno e nell'altro senso, perché è veramente ridicolo immaginare che valga in un senso e non nell'altro. Però che succede? Siccome a giudicare è il Parlamento, e il Parlamento ha nel suo ambito maggioranze, mi pare evidente, no? Sì. Il criterio è quello della maggioranza. Allora che succede? Succede che poi io farò una proposta, so che il mio collega Follini al Senato farà una proposta analoga, quella di affermare che tassativamente chi, come il collega cui faccio i miei auguri, Zacchera, decide di fare, se qualcuno decide di fare un'attività diversa da quella parlamentare, quindi anche una dimensione elettiva, fa solo quella, perché ha fatto una scelta e la faccia, Noi affermeremo la tassatività di questa impostazione. Vedremo che succederà. Staremo a vedere. Io mi devo fermare qui ringraziando sia l'onorevole Pino Pisicchio e l'onorevole Marco Zacchera, che è anche appunto sindaco di Verbania, del Popolo della Libertà, mentre Pisicchio dell'Italia dei Valori. Staremo a vedere, sì, anche Follini, che ha la sua stessa carica, diciamo, al Senato, la proporrà al Senato, se ci sarà questa incompatibilità tassativa oppure rimarranno i doppi o tripli incarichi. Alle 8:49 minuti io saluto Massimo Alberizzi, che è inviato del Corriere della Sera. Mi senti, Massimo? Sì, pronto. Eccoci qua, tu ti trovi in Kenya. Allora, Massimo Alberizzi, tu stai seguendo, come tra le altre cose, la vicenda dei nostri connazionali rapiti l'11 aprile scorso, erano su nel Golfo di Aden a bordo del Buccaneer. Insomma, ma non se ne sa niente. Tu hai anche parlato varie volte con i rapitori, con i sequestratori, alcuni di loro parlano italiano, come spesso accade in Somalia. Che se ne sa di loro e che cosa stiamo facendo per tirarli fuori da lì? Senti, guarda, è molto complicato perché questi sono dei banditi, quindi non rispondono, diciamo, ai leader politici e direi che soprattutto sono abbastanza inavvicinabili, nel senso che bisogna utilizzare dei canali criminali, diciamo, tra virgolette, se vuoi, perché sono somali, la situazione è complicata, andrebbe dettagliata un pochino meglio, però il senso è questo. Ora l'Italia si è mossa più dal punto di vista politico, cercando di coinvolgere l'autorità del Puntland, che è quella regione del nord della Somalia autonoma, diciamo, o pseudo autonoma. Però loro non hanno voluto fare niente, perché sebbene siano coinvolti nella pirateria, e questo è vero, in realtà quel gruppo non lo controllano, no, quindi certo, non possono farci niente. Tra l'altro, Massimo, ti interrompo perché vorrei far ascoltare un file che abbiamo preso dal Corriere.it, una telefonata che tu hai fatto, hai messo appunto qualche giorno fa, a dire la verità, in onda, e sei riuscito a parlare appunto con il comandante Yarloy, Mario Yarloy. Sentiamo l'audio, non è perfetto, ma insomma si capisce la disperazione anche dei nostri connazionali. Posso parlare con Mario? Pronto. Sono Massimo Alberizzi. Io sono Mario. Mario Yarloy. Ciao, ci siamo sentiti l'altro giorno. Senti Mario, siete tutti sulla nave o qualcuno è stato portato a terra? Sì, persone sono state portate a terra. Ma avete ricevuto il camion di cibo? Non abbiamo ricevuto niente qua. La situazione è cattiva. Ho da mangiare riso e il pane che ci fa il fuoco. Ma acqua l'avete? L'acqua negativa, non c'è più acqua potabile, che la stiamo bollendo. C'è qualcuno che è ammalato, che tu sappia? Sì, abbiamo delle persone che non stanno bene, ma proprio di depressione, c'è un'altra persona che guarda perché non possiamo fare niente. Che telefonassero a sti benedetti signori, che mettessero d'accordo e fanno quello che devono fare. Che 51 giorni che lo devono fare. E ci siamo rotti le scatole di stare con questa cazzo di barca. Grazie, ciao. Insomma, ciao. Anche molta concitazione, ecco Massimo, molta disperazione, ecco, in questa situazione, cioè l'idea di essere un po' abbandonati, cioè nessuno che se ne sta occupando. Esatto, questa è la cosa più grave, perché poi esistono anche dei rapporti sulle sindrome degli ostaggi. Gli ostaggi che si sentono abbandonati cadono in una profonda depressione, da cui poi anche una volta liberi non si tirano su o hanno grosse difficoltà. Tra altre cose, quello che manca, che non abbiamo perché la telefonata è stata lunga, è stata 12 minuti, ma a un certo punto è scoppiato a piangere. Adesso certamente sarà stato sotto la minaccia, quindi non avrà potuto dire la verità, o almeno parte della verità, però uno che si mette a piangere, cioè un po' difficile, è un attore consumato, oppure la situazione è molto difficile. Io tra l'altro vorrei salutare il professor Nicolò Carnimeo. Buongiorno professore. Buongiorno. Il professor Carnimeo, che insegna diritto alla navigazione dei trasporti a Bari, tra l'altro ha scritto un libro uscito proprio poco fa da Longanesi, Nei mari dei pirati. Ha sentito, professor Carnimeo, Alberizzi dire che più che alle logiche politiche, più che alle logiche dei pirati, insomma rispondono alle logiche proprio strettamente, probabilmente criminali, le persone, dei banditi li ha definiti, le persone che hanno in mano questi nostri connazionali. Questo complica la situazione ulteriormente? Sì, direi di sì. Io direi che è venuto veramente il momento di lanciare un appello a favore di questi nostri connazionali che sono lì da tanti mesi ormai. E ovviamente noi abbiamo provato due strade. Abbiamo l'opzione militare, che è pronta da tempo, quindi la nostra marina è pronta ad intervenire, ma non ha l'ordine dell'autorità politica. Stiamo provando invece una strada di mediazione, la Bonniver è andata lì, ma è andata a parlare con i rappresentanti del governo del Puntland, che non è neanche un governo, si è autoproclamato governo. Non sono non ci danno alcuna garanzia. Perché non ci danno alcuna garanzia? Perché non controllano il territorio. Come sappiamo, in Somalia l'organizzazione è su base clanica, quindi loro controllano una piccola porzione del territorio e il resto no. Quindi probabilmente chi ha gli ostaggi del Buchaner non è in rapporti con, certo, il governo del Puntland. Con le persone. Tra le altre cose, il governo del Puntland oggi, con i dollari che sono stati, che arriveranno in Somalia dai paesi donatori per la conferenza di Bruxelles che c'è stata in aprile, in pratica loro vogliono, diciamo, avere la faccia pulita e quindi per poter accedere a questi finanziamenti, perché a quanto mi risulta fino ad ora anche loro hanno guadagnato da questi atti di pirateria. Mm. E insomma, Massimo Alberizzi, il primo giorno che ci siamo sentiti, quando ci fu il sequestro, tu hai detto non si sa queste cose in queste regioni del mondo quanto possano durare. Sei stato un po' profeta, insomma, sta durando da diversi giorni. Ricordaci in chiusura quanti sono gli italiani che sono lì, insomma. Sono 10 gli italiani prigionieri, diciamo, ostaggi, poi ci sono 5 rumeni e un croato. Ma la cosa più, diciamo, che incomprensibile è questa richiesta del silenzio stampa, perché non si riesce a capire a cosa serve il silenzio stampa. Se uno me lo spiega, io sarei d'accordo. Uno mi dice, guarda, rovini le trattative, ma io vorrei sapere, forse i pirati sentono Radio 24 o leggono il Corriere della Sera anche su internet? No, non hanno internet, primo. Secondo, anche se noi mangiamo in rete una telefonata dell'ostaggio, non ho capito come questo può incidere sulle trattative. L'unica cosa è tenere buono, poveretti, le famiglie che mi telefonano tutti i giorni perché sono agitatissime, sono naturalmente disperati, e le mogli, i figli, i padri di questi ostaggi, anche dei rumeni, perché mi hanno contattato anche i rumeni, che sono la figlia di un ostaggio rumeno, certo, che è disperata anche lei, e che non hanno notizie, non sanno come fare. No, ma io infatti mi devo fermare, e vi ringrazio sia Massimo Alberizzi, il professor Nicolò Carnimeo. Ricordo ancora il suo libro Nei mari dei pirati, edizione Longanesi. Qua il silenzio non ci sarà, per quanto si potrà, insomma, cerchiamo di tenere alta l'attenzione invece su questi 10 connazionali. Ci sono anche altri, appunto, rumeni e ucraini, lì in mano ai pirati in Somalia. Ci fermiamo però. Alessandro Marcotulli, Laura Marchesi in redazione, Carmelo Lauricella in regia, il GR, poi Giuliano Ferrara. Noi ci sentiamo domattina. We'll be right back.